farli rimanere buoni amici come noi. Che microfono? No. Santa voglia di vivere e dolce venere in effetto. È giusto? Come puoi quando fino e tu mi domandavi, guarda, guarda, se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non parlavi. Ed il vento passava, ma dove era fuori la roba così? E il vento passava sul tavolo di pelliccia sulla tua persona. E quando io senza capire ho detto sì, ma hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho. Dirle un indirizzo nuovo e la tua faccia sovrappolla quella di chissà di altro, ma ancora i quattro assi, ma la vene di un colore solo, e puoi nascondere o giocare con chi vuoi o falli rimanere buoni amici. Pensa te. Recording. Ah, recording. Ne sono recording tutto. Recording. E me recording tutto. Vento,